scontro proprio all'asfalto, sono 286 metri, 286 più contact 40-45 metri imbarazzo, sono oltre 300 metri, capito? Oltre 300 metri del bordo del mare, quindi una zona abbastanza buona, abbastanza alta. L'hai sentito a Giuseppe, davvero? Sì, ha detto passo basso, a volte non si capisce neanche quello che dice. Molto basso, molto basso. Non so se lui mi ascolta a me. Ciao Giuseppe, comunque non lo c'era, vai, adesso ti ho sentito bene. Ci è arrivato un segnale di 3 adesso, Radio 2. A volte leggero QRM, si trova in mezzo al QRM. Giuseppe, adesso più forte ti arrivo. E non sono al massimo, ecco. Sono 20. Ma te lo vedete, esci bene, Natalino. 20 watt e arrivi capo al mondo. Ma che si abbassi. E Giuseppe Alghero c'è una Grand Prix, offra. C'è una Grand Prix. Una Grand Prix nella zona di Sant'Agostino. E aspetta, le buone antenne a precisare a me, che ridimo. Ehi, ciao, dai. Ehi, Sant'Agostino, sì, conosco la zona. Vabbè, in confronto da lì arriva bene, diciamo, avendo una Grand Prix, allora arrivare qua, caspita, non è che arriva male. No, arriva bene, c'è un base della Fayette, 220, con un minarettino, arriva bene, 9,5 qua, abbondante, va bene. La Grand Prix è che lavora quanto bomba, l'antenna poi bassa, coperta, capito? Se avessi avuto l'antenna alta mi verrebbe molto meglio. No, ma mi conviene mettersi una ciclotabile, un'antenna come ce l'abbiamo noi, una Mantova, qualcosa. Perché intanto lì, pure della Mantova, sì, già ce ne sono antenne, però magari. No, perché non ho provato niente fuori dalla Mantova, però magari sono altri tipo la Tornado e altre antenne che sono a livello della Mantova, penso io, perché basta che siamo ciclotarri, io penso che come antenne sono tutte uguali, però solo di noi siamo disillusi. Capo una cosa e lì c'è butto. Sì, ma infatti è così. Capo, vabbè, là. Mattalino invece ci ha pigliato la G, è un come la metto, la energy, non l'ho mai sentita quell'antenna. Ho dovuto prendere quella, perché è un'antenna leggera. Guarda, tu non sai cosa avevo passato per piazzarla. Chissà antenna, come avremmo dovuto travagliare. Caro Franco, va, se non ho avuto la Mantova non mi rava via. Diciamo che la Mantova sì, è un pochettino più pesante a trasportarla, a girarla, a fare quello lì. Però diciamo che non ha avuto mezza, certo che il punto dove ce l'hai tu è brutto, come a mettere un'antenna. Lì ci voleva un trapattello, qualcosa per andare su. Ma come mai Natalino? Dal tetto ci poteva intervenire? No, non posso salire sul tetto. Hanno chiuso il passaggio per il tetto, non hanno preso. Hanno dato che cosa di abusivo. Non c'è più il posto, perché mia moglie dice che c'era dove poter entrare al tetto, però l'hanno doppiato, hanno sarrato, cosa ne rifaccio, la casa io. Ma è una volta, ma rimai. Ma vabbè, va, meglio non contare con nessuno, non c'è problema, va, l'ho piattato ugualmente. Ehi, capo, no, hai fatto bene, era salito, quello ci potrebbe altro, stavo scherzando io, sono una bottola. Una volta la casa dell'altro, no, non è giusto. Avanti, ciao. Ok, va bene, dai, io mi preparo e vado a portare il cane, signori. Ci sentiamo dopo se ci siete, ok? Un saluto circolare a tutti. Ciao, ciao, ciao. l'ho già portato il cane, ha girato anche troppo. Signori, io sono rientrato, cambio! Ehi capo, dai, ciao Claudio, ci sentiamo, buona passeggiata col cane. Cos'è Natalino? Tu fai come ti porto io. Quindi vai a via di e che ha detto uno figa fingheggia. No, l'ho portato, il cucciolo questo, è ancora quando andando al guinzaglio. Se lo mollo qua al traffico c'è un ruga fingheggia. No, io non ne ho cane perché non. Non c'ho forza a tenerlo, ho capito Natalino. Non c'ho forza. Per fare male il cane è meglio non averlo. Avrei avuto posto, allora sì, magari l'avrei tenuto. Lo so, però organico cusato, tu fai i duni, noi russi. Capo, anche quello c'è. No, quello che non posso per passeggiare lui, per uscire lui, giardino, tutto, non so se dentro casa, dentro casa a me è uguale, non mi piace. Allora, va tu è. Capi. Dico questo, uno per trattarlo male e per fare male anche all'animale è meglio non averlo, meglio lasciarlo stare e lasciarlo a chi lo tratta diversamente, dai. Io ho quel carattere lì e dentro casa il cane non mi è mai piaciuto, anche quando ero in campagna. Abitavamo lì a Portobello e non mi è mai piaciuto il cane dentro casa, sempre fuori. Infatti. Ciao. Io ma te si andò. Ciao Ri. Natalino, arrivederci. Ciao. Cosa devo dire? Io in campagna ce l'avevo e stava fuori, il pastore tedesco ce l'avevo io. Bello, un bel cane. Peccato è morto. C'è qua a fianco a me, c'è mia cognata che c'ha il pastore tedesco, ma ci hanno posto a tenerlo, ci hanno un bel ingresso con il cancello, tutto, c'hanno, e lui gira, fa, e c'è il posto, c'è. E invece va Giuda, zero più. Metto in casa, no, ma manco. Ma c'ho il terrazzino, ma in terrazzo fa male un cane. Ciao Franco! Ma cosa ti credi che non ti ho visto, Tra buti buti, può cuomane, Ma ti credi, non ti ho bucato le gomme, può cuomane. Ui, cucaino. Ciao Eugenio, buonasera, e ciao anche a Luca. Ciao Eugenio, adesso sì che ti sento. Io sono là. Supermercato, diciamo, vai. Allora mi senti bene? Quando eri al distributore non ti sentivo. Infatti lo sto facendo Claudio, eri lì, se no non lo sapevo neanche. Allora, Luca, buonasera. Buonasera a tutti, dai, sono appena rientrato, anch'io guardavo le parti del mare, bello, c'è un po' di gente. E poi sono andato a vedere quei, come si chiama, ultraleggeri, dai, via Platamona. Sarà che c'è Eugenio Finardi da Porto Torres. C'è Eugenio Finardi? Sì, stasera a Balai c'è Eugenio Finardi, cambio! Aspetta, allora c'è questa grande lì a Porto Torres, altro che la bucia manna, Avanti, Natalino. Mi pare che fai, Sanottimi. A che ora inizierà? Inizierà le 6:10, dopo un mese 10. Ecco, vai. Andate lì, dai, mi è arrivato gente. E ci sentiamo. Dai, non proseguo tutto, ci sentiamo. Ciao Natalino, ciao Eugenio. E ciao Giuseppe di Larghiero. Scopriamo per le prossimine. Avanti a te, Natalino. Capa, ciao Franco, va, le prossime. No problem. Avanti Eugenio. E la zona banca. Zona bancari, non so se mi sentite, sono dentro un buco. Già ti sento. Ebbene, questo è importante. La salute, adesso è importante. Cosa, Natalino? Già l'ho sentita la portante. Ma dove? Oggi è importante. Ebbene, c'è una piccola portante, debole. buonasera a tutti, ciao Gabriele, sono andato per salutarvi un minuto, adesso non a portare il cane e ci sentiamo dopo. Ciao, adesso un qua, dai. Ciao Giuseppe, buona passeggiata anche a te, dai, vai, fatti due passi che già ti fa bene, ciao. Ciao, ricordati di staccare lineare. Già lo so, non ti preoccupare. Certo che sì, dai, ci sentiamo, ciao. Tanto prima non posso scendere io, dopo le 10, dai. Te ne sei andato tu dal distributore per vedere se ti arrivava più forte, capito? Ma io ti incubato a vero quando l'hai inteso. Cosa hai così? Ma non ti ho capito adesso, mi arrivi basso. Avevamo te giù compreso. Ma se vai sul microfono, tutto impazzato, E non ho capito cosa gli ha detto. Eugenio Fiardi ha iniziato la sette a suonare. Ehi cavolo, allora, io mi sono appena senti a Bucciudoro. Se mi ruggiamenti che andavo in Bucciudoro, invece dove ci devo rugare per dire sì. Ma vai sul microfono, qua non si comprende nulla. Se vuoi, se credi hai, poi tutto impazzato. Va bene, vai. Ciao a tutti. Ciao, ma ci vediamo, stanno a portare il cane. Però è uscito il corso, è il microfono originale. Giuseppe, non lo ricompresa, non lo ricompresi. Tu non hai detto che non è il microfono originale, invece sei tutto impazzato. Se tu metti a voci, non si capisce niente. Perché c'hai una voce brutta, la piccola. Va bene, ciao qua, vai a portare il cane, io ho trovato la sigaretta, ciao a tutti. Non lo so, l'ho acceso adesso qua. Sì, no, vabbè, pensavo ce l'avevi acceso. Infatti si è fatto il corso di toccare l'antenna. Che vediamo se quello mi dico io. Ok, sentiamo dopo, va. Va bene, a dopo, ciao. Sentiamo dopo, tantissimo, la porterà Pippo, ciao. Vai, già sono qua. Flavio, non c'è chi è andato a portare al cane. Ah, ok. Ehi, adesso sì che ti capisco. Ma che ora poco fa ci aveva attaccato la bocca per uscire più sotto, ma non l'ha più coraggio. E l'ho dovuto lottare sul microfono che è un po' più forte di gli altri. Infatti, non ti capivo, ti giuro, oggi non ti comprendivo. Penso che dici. Sono sceso a Porto Torres stasera, ti stavo chiamando, e tu eri a Mari di Vula. Ciao. senti a me perché sono piccolo e nero. No, no, io ieri li ho visti stasera a Platamona, tranquilli, nel balcone dell'albergo, capito, qua non si dice della sigara, tranquilli, servizi riferiti alla faccia degli imbecilli degli italiani. Ma non hai visto a Platamona perché? Sì, ero io a fare un giro con i miei amici, e siamo andati lì a Trucca, visto che si stanno facendo due lavori, e c'erano tutti, sai che se Trucca ci sono già una metro, ci sono i clandestini, erano tutti quanti lì in terrazza, nelle terrazze diciamo delle stanze, no? Tutti belli, seduti, guardandosi il mare, capito, un'altra lì, ragionali tra la via. Alla bassa nostra, io ti gatto 25 aprile, stessa liberazione, magari ci fosse più benissimo adesso, a Ricaglietti l'avrei fatta correre, a questi e a tutti i ladri. Se no a Putin, chi mi pare io già voglio, moschee, quali moschee? Qua non ne facciamo moschee, qua comandiamo noi, se non ti piace torna a tenere dove sei venuto, a ditemi, l'uso, macu macu. Hai ragione, capito, ogni limite, c'è una cosa, c'è un limite, capito, soprattutto, allora, tu pensa, nei paesi arabi, in pochi anni hanno dimezzato i cristiani, hanno lasciato le chiese, e l'Occidente cosa fa? Dice, noi non siamo come loro, da bla, queste stronzate che dicono, questi quattro politicati mediocri, noi ce l'abbiamo, vabbè, voi musulmani, state buttate le chiese, ogni chiesa che voi fate saltare lì nei paesi musulmani, nei paesi arabi, noi ne chiudiamo una in ogni nazione d'Europa, capito? Cioè in proprio 27, non è buttati una e noi ne chiudiamo 27 di moschee. Voglio vedere il cazzo si sarebbero calmati, invece un cazzo, tutti loro che loro fanno il cazzo che vuoi, noi razzismo, chiga, noi siamo come loro, se sono stati che dicono i politici. E ma i politici non sono mediocri come dici tu. Sono figli di puttana che si mangiano i nostri soldi e loro non hanno compreso. Ma mediocri nel senso cattivo, però nel senso buono. Non so che non sono figli di puttana, hai capito? Però per dire, questa è la realtà. Putin gli fa bene, come si chiama l'altro americano? Trump, lo stesso, fa di lei. Prima gli americani, poi se avanza aiutiamo gli altri, ma se non c'è stato per gli americani come cazzo questo aiutare gli altri, capito? Così fanno in Italia, capito? Cazzo c'è il 40% di disoccupazione giovanile e vuoi aiutare gli altri, cazzo non sei capace di aiutare te stesso, vuoi aiutare gli altri, vuoi aiutare il mondo, l'Asia è fallita. Mi sa tanto hanno già stanziato 1 miliardo in più quest'anno rispetto all'anno scorso per i clandestini. Ragionati andare al comune a seccare la radio. E io ho finito a maggio scorso di lavorare e mi stavano dicendo quelli fissi che forse non ne chiamano più pure per dare lavoro a questi gran figli di mignotta. Quando l'altra mattina dove c'è il comune, là, c'era quel bar sulla destra, dove c'erano i, visto più nella piazza dove c'erano i, noi siamo andati a piedi, facevo un giro, un amico, dove c'è una cosa lì, e quando va il corso, quello dovrebbe essere via Cascherina, dove c'erano i vecchi uffici dove si facevano i documenti, del comune, poi sulla destra c'è quel bar, poi gira a sinistra c'è l'entrata del comune. E quel bar non aveva dato l'amico Giulio. E là era amico mio. Il sindaco. Siccome io lo conosco di vista, non ci conosciamo perché è un calcio amico di mio zio. E gli ho detto, cazzo sindaco, ma lui non può andare in televisione a fare quello sport di casa serena. E cazzo io dopo 2 anni, grazie agli immigrati, abbiamo riportato questo giardino splendore. Avete fatto uno sport ridicolo. Perché voi quello giardino avevate quello voi comune 3 anni fa, non aspettare i clandestini. Tanto non ci credono più gli italiani nella politica di sinistra che state facendo. Alle prossime elezioni siete tutti col culo per terra voi di sinistra, capito? Cioè, stiamo aspettando noi i clandestini per pulire un giardino, ma siete ridicoli, voi dite adesso. Ridicoli su, Rusocca. Io penso nella Magna Edi e là si arrangino, non ho capito. Che c'è? Mi capisco così, ah. Ti piace il telefono un macello. E allora, c'è un mio amico, visto l'hai a Platano, a Vito Luca, visto l'hai, che per i clandestini l'hanno riaperto, d'accordo col tribunale, capito? Perché non hanno fatto tutta questa velocità per metterci famiglie di sassaresi, bisognosi veramente, e invece è un cazzo. Allora si tutto subito immediatamente, capito? Se ne sarà avuto tutta questa velocità che hanno con i clandestini a metterli dentro un pelo, a dare un pezzo, non ci sarebbe un italiano, uno lì, uno scatto a contarlo, senza un pezzo, uno. Se ti so così zenni caccia chi fa i miei schifo, se no come ti fai ne impazzisci di una fabbri. Io non faccio questi discorsi, ma mi viene nervoso, cazzo, nervoso. Parlo di povertà, bla bla, e poi cazzo tu mi vedi in giro con i giovanotti per i due frati. E mi dico che come non dico, perché non invate le infame? Capito? Noi siamo abituati a avere i bambini che muoiono in Africa, tutti i cazzi che pesano mezzo chilo. Questi belli palestrati, belli invece. Cazzo, la fame stiamo facendo, secondo te. E vai, cosa fa a me? Gli ribagano, cazzo, da buccia udio, ridina. Che prendono loro più tutti i soldi che si mangiano questi che erano bastati dei politici, figura, è tutto un giro di dinami, Fabri. Allora, lì se la vado mi chiesa, cazzo, per vedere queste navi che vanno a caricare proprio, cazzo, lì in Libia, capito? Per carità, non c'è un cazzo di pulizia, non c'è più un orgoglio di nazionale, proprio zero. Tutti gli stessi, dice la figa, scappano a fare, invece in Italia non viene fame, non viene fame in Italia, sono tutti quegli anziani, cazzo, li aspettano a chiudere i mercatini per raccogliere la roba, cazzo, che ci buttano, sono tutti di certe cose, anziani che hanno 85 anni, cazzo, che si può dire, hanno creato una nazione, li vedi in queste condizioni, ma dove cazzo vuoi andare? Ma chi su quasi livelli l'Europa si molla la rasura, che non ne ha fatto un cazzo, se noi faremo tutti questi grandi problemi da parte di questi clandestini, ci lasciamo da solo in Europa. E qua la prima cosa che dobbiamo fare è uscire dall'Europa subito e dall'euro. Perché altre nazioni che non hanno l'euro hanno una crescita spaventosa a confronto a noi. Sì, pensa che c'è la Polonia cresce da 3,5 a 4% come prodotto interno lordo ogni anno, ma è la numero uno in Europa, non ce l'hai come lei, micidiale, eppure c'ha la sua moneta, lo sviluppi, e quello sono stati più furbi, e ce l'hanno in Costituzione, capito? Quindi volendo per avere l'euro che non vogliono, cazzo, dovrebbero cambiare la Costituzione, non le fanno mai, capito? Ci hanno fottuta, mi sa che ci sono loro e altre due o tre nazioni in Europa, cazzo, ma voi cazzo sono Europa, cazzo, la moneta, un altro no, ma che senso ha? Ma è l'Inghilterra che se n'è andata, macca, ha capito che era l'imbroglio. Cazzo non lo vedi, tutti i miliardi chi devo fa ingrassare pure ai salienti. Vai. E questo burrino di navi in acque internazionali. C'hanno le mitragliere sulle motovedette. Così ragazzo una raffica da Nazio a Dareddu, a Poppa, cazzo. E fatti ridurre da onde mi sono giunti. Cazzo. Così non si interroga di nessuno in acque internazionali, capito? Se no, se vi muovete da qui, cazzo, vi affondiamo. Tornate per indietro, ma in fretta però. Allora, siamo a sparare all'Inghilterra, tu mi senti, se l'Inghilterra esce dall'Europa, mi senti questi grandi professori dell'Europa, questa banda di delinquenti, di Bruxelles. Cazzo, secondo te, una nazione come l'Inghilterra, se esci dall'Europa, falliva. Infatti come è uscita l'Europa subito i mercati subito alti, non potrà mai fallire una nazione così forte come l'Europa, come l'Italia eccetera. L'Italia può fare tutto da solo, l'agricoltura, ma abbiamo bisogno di comprare un caffè da nessuno, un verdura che c'è dalla Spagna, che c'è dalla Francia, non lo sa, purtroppo non c'è politica, altrimenti noi potevamo fare di tutto e di più, e noi cercassi comprare tutto dagli altri. Gli aranci, due aranci, poi in Sicilia gli aranci e li fanno marcire sugli alberi, perché costano di più. Allucinante. sociale, perché tutti incallati di politica, passate i poveri. Infatti no, non si può andare da Matusia, che cosa succede, ma forse, perché non possiamo rimanere così, guarda. Allora, politica seria, noi avevamo cercato di rifarlo, abbiamo tutto in Italia, potevamo vivere tranquillamente senza rotte di scatto di nessuno. Invece no, ti dice, ti dice l'Europa, ti dice le vongole, troppo piccole, ti dice l'Europa, ti batte, no, il tono, ti dice l'Europa. Anzi, tra l'altro, un'opinione faticosa mi proprio per tutte queste leggi del cazzo. Allora, io gli ho detto la trovata mattina all'agricoltura, però faceva, ma non è uno sforzo, ho fatto una cosa buona, torna, dottor, avete fatto uno sforzo ridicolo, quando voi dite grazie a questi ragazzi qui, il palco del giardino di Casa Serena è tornato, ma voi siamo affrontati voi il comune, se siete efficienti, e il vostro assessore alla Zecolo Urbano, però io ho fatto 3 anni fa, capito, come tutti i giardini della città, con la Ciselle, ma cosa vuoi dire? Cioè, come vuoi dire che differenza è un decidio se a sedere non vuole lavorare, tu paga la gente, e c'è la qualità di famiglia, capito, perché la nazione paga le tasse, capito, i ragazzi dicono, quella di figli, grazie a loro, bla, state una cagata, quindi io ecco. Intanto fatemi subire il bar e biase e basta, e tu se non ti biase ti raggiambi, come te succedendo. Purtroppo è così. Lo sai cosa potrebbe succedere anche? Però magari grazie alla cassura, così potrebbe infatti c'è da pulire, per dire un esempio, un giardino a latte dolce. Chiamiamo 10 persone, magari a qualche centro accoglienza, li mandiamo magari all'operaio del comune per guardarli e sapere come si fa, e poi lo fanno fare a loro gratis, e tutti i dati arrivati a casa. Si ci sono così tanti, quando io entravo al comune e andavo al verde urbano, cazzo, mi volevano roba di 20 autisti, chiamavano. Cazzo, ti chiamano, sai, cioè l'anno scorso quando sono entrato per 6 mesi solo, ma sai quanto mi hanno chiamato autisti? Da 4 che ne dovevano chiamare ne hanno chiamato 3 invece di 20, a fine differenza. Sì, sono tutti di seggio, ci abbiamo solo queste stronzate. Questa purtroppo è la realtà. E non è che ci sia così, Cioè noi infatti dobbiamo pulire e ci mettiamo magari, incominciamo magari a mettere 5-6 nella squadra. Voi, buone urso, fino a poi invece tutti i cazzo così, se ne mettono uno magari se la controllare. Gli altri sono fare così, a gratis. E così possono cazzo tutti gli altri che sono per lavorare, per di famiglia. Ma non hanno più neanche l'autoparco, che c'era la Slia, c'era. Cazzo, no, le più nulla, tutti in affaccio sono denti. Se per aiutare queste cooperative, mi capisco, che si mangiano tutti i denari, tutto in appalto stanno dando. Non lo so come funziona, è allucinante, proprio è una cosa, guarda, vergognosa, cioè se in Italia non succede qualche cosa di grave, proprio a mettere al muro queste persone, sarà veramente una cosa allucinante, sempre peggio, sempre più poveri, poi grazie a poi succedono le aziende, pigliano soldi dallo Stato per aprire la fabbrica, poi cazzo la scarrani e la portano nei paesi dell'est, dopo cazzo che l'Italia dà i soldi per comprare i macchinari, cioè allucinante, c'è gente che non c'ha le spalle, ma però tu non li tocchi, non ti sputi via i macchinari a chi va a pagare l'Italia, lo lasci qua. E come ti ha fatto la via, perché ti ha portato tutto in America, non hai visto? La via te la vuoi tutti i dinari che sta mangiando, a chi se l'hanno mangiato di là la via fammi. Eppure ti ha portato tutto. Allora, c'è una cosa incredibile, cazzo, che anche se fosse a parte la sede, cioè non paga manco le tasse qua. E tu con l'altro imbecille di Renzi, Marchione, un esempio per il caso, cazzo, se pagano le tasse fuori, che cazzo di esempio può essere, con il giorno si ha. Invece si va, avete avuto il coglione, non ci va perché un qua, no, e ritorna lì alla famiglia Agnelli, che tutti gli stabilimenti italiani sono in proprietà degli italiani, con tutti i soldi che avesse l'Italia dato alla FIA. Così, cioè, guarda, per cambiare l'Italia deve alzarsi qualcuno veramente con il coglione forte, perché un mezzo di cattore, cioè tutti questi disonesti. Uno come se sia venito per Aurudu, e tu pensa, ci stanno disarmando perché hanno paura delle armi, ma ti pare cazzo, i delinquenti le armi non se le comprano in armeria, i legati dei centurini li stanno disarmando perché hanno paura delle armi, o sai che il bubolo si iria. Ci stanno disarmando, perché io c'ho l'obbligo del tirassegno, però ci stanno mettendo i bastoni fra le ruote. Ehi, però ma c'è così, faccio il tempo con la sera delle, di tutte queste cazzo di delinquenti dall'est che non fate entrare, cazzo più reati più sani, cazzo quindi la popolazione più paura, non faccio tutti i guardi, le richieste del posto d'arma per uso sportivo hanno triplicato in pochissimo tempo. E allora cosa hai fatto? Questi non è per allenarsi, andare qui magari per abbracciare la strada, per essere così. E allora invece di schiacciare i delinquenti, diciamo, no, togliamo le armi al popolo, capito? Non si sa mai. Ma cosa vuoi ci dica? E si stanno prendendo il portarmi sportivo perché quello per difesa personale non te lo danno. Vabbè, non te lo danno, dipende secondo il tipo di lavoro che fai, già te lo danno. Però è raro, devi fare un certo tipo, qualche tipo di lavoro, roba così, capito? Però se no non te lo danno, secondo me il cittadino non te lo danno. E quindi l'altra opzione è chiedere un servizio sportivo. Un amico mio ce l'aveva per difesa personale, no, perché lui è ragioniere, porta i soldi della ditta. Ha cambiato ditta, no, con la scusa che il fatturato ha cambiato e gli hanno ritirato il porto d'armi. Allora, allora non lo so se è così, una volta lo sanno che tu non c'hai più pericolo da così, allora siamo solo. È normale, capito? Però i delinquenti non me li togli, anzi, sempre di più. Ma cazzo, se un delinquente si piglia lo Kalashnikov, cazzo, qua tu te lo puoi comprare il Kalashnikov, solo che non è a raffica. È modificato in modo che tu non possi sparare a raffica con quel fucile, capito? Io so, spara col pubblico, capito? Però solo questa è. Guarda, i concorsi che li fanno 300 euro, se lo danno nuovo, non vuoi che dovrà la busta di plastica. Io quasi qui sono vent'anni che ci vado in corsi, che ho tantissimi amici, ci lavorano, ci fanno almeno una trentina di cose all'anno, capito? Lo so, io cioè, ci ho anche sparato in montagna, nei poligoni clandestini, capito? M12, Kalashnikov, poi P28, 765, ma ce n'è solo un casino di armi clandestine, che ci c'è i soldi, non c'è nessun problema, prova a portarlo. Infatti, è un casino. Oia, vabbè, non ha tutto un cavolo. Quando vuol dire che non possiamo più andarci, non ci andremo, e cosa vuoi fare? Perché ci stanno disarmando. Allora, poi vi dici, qua c'è un certo difetto come l'America, cioè, ma io ci sarei per casa mia, la mia proprietà, ma posso averci un'arma? Un'arma è meglio di non averla, cazzo, mi chiedono in casa, tu non sai cosa ti fa, quell'arma è diverso, è la chance di difendersi veramente. E loro anzi vogliono togliere il fatto la cosa di difendere sempre che è la sua, capito? E loro sono stati ammazzati, tutto va bene, però se tu reagisci, cattiva, eccetera, intelligente difesa, ti ha portato di notte, ti ha saltato la recinzione di 4 metri, io non prendo lo stare fronte, ma vale. Ti condannano, qua non vuoi fare, devono togliere il reato di eccesso di legittima difesa e il giudice non ti deve indagare assolutamente se ti difendi in casa tua. Ecco come la legge è giusta. È quella che vuole mettere la destra, la Lega, però no, capito, non puoi lasciare la discrezionalità al magistrato di decidere, perché poi se uno va così la pianina certa, il giudice deve fare così, se tu sei stato una proprietà privata, bla bla bla, ti chiude 10, quasi zero, capito? E quello è così, poi c'è il caso quello che dai coltelli tu hai sparato, che pressione già c'è, non c'è, questo è il problema, ma non che come hanno fatto molte persone quando l'hanno sparato dentro la proprietà di notte, il cazzo formalmente abbiamo messo una pistola lì, ho capito, quando non dico c'era questa la pistola, me l'hanno messa loro, bella pulita, me l'hanno fatta impugnare con la proprio con la propria mano e ne sono usciti puliti, altrimenti hai rotto di guglione. Se manco i carabinieri e la polizia può lavorare tranquillamente, se sparano a qualcuno, li indagano, c'è il disposto. Allora cosa vuol dire? La polizia disarmata, praticamente se un carabiniere ti spara a te, cazzo uno l'hanno sospeso dal servizio, ne ha levato bocca che ha ammazzato da uno, prendi il per il suo, ma dimmi tu. Sì, quel carabiniere che ha sparato in fuga i ladri, cazzo dopo l'hanno fatto diverse rapine, fuggi in appartamento, ha sparato di striscio, aveva ammazzato un rumeno, cazzo pure pregiudicato, decine e decine di furti, capitava qui, era una mazza di galera. Eppure così, cioè se con la legge non ha scalato, ah se lui deve dare una medaglia d'oro a quel carabiniere, ha ammazzato un culo pregiudicato, bastardi, e voi giudici avete messo fuori 20 volte, quindi quasi la prima penale, è stato 8 voti di prigione. Poi sono favorevoli al delinquente, capito? E a quel tipo che gli hanno spaccato tutta la faccia, l'hanno fatto vedere, poverino, mi ha fatto così pena, in televisione hanno fatto vedere, tutto spaccato in faccia, l'hanno curto chi c'ha sussa, che ha derubato, cazzo, buona raccia. Sai cos'è, Natale, il problema? Che prima il ladro si pensava, vedeva, ci spostamenti, aspettava che andava via dalla casa, capito? Allora entrava, ma va con questi delinquenti dell'est, perché sono tutti dell'est, loro vogliono entrare nella tua casa, oltre figurati la roba che hai, vogliono umiliarti pestandoti, capito? Questa è la realtà. Il ladro, diciamo così, professionista, il vero ladro, non entrava a cazzo nelle case così, capito? Questa è la realtà. E quindi lo Stato deve fare delle leggi con cui deve fare quelle leggi severe per questi tipi di reati. E non fare leggi, il tipo, sì, si è entrato a fare una rapina nei voti, il solo modo di cui è stato una rapina è puntato una pistola a cazzo tipo 25 anni di galera, senza un giorno di sconto, ma poco da tutto, avevo tipo la pistola a fronte. Grazie via, sono così zendi, non è possibile, con questa legge italiana non è possibile, se reagisci ti condannano a te, cazzo. Bisogna ciambare a leggi brutto. Niente, il giudice deve applicare la legge, come fanno in America. Non ti indagano neanche se non c'è nessun sospetto che tu, a chi tu vuoi dire ammazza in casa tua. Se lui fugge, lo devi lasciare fuggire, perché se no se tu lo spari alle spalle a questo qui, allora è impirito, allora è giusto. Su quello sì, certo se tu vedi un ladro che magari tu sei stato assaltato l'accensione che per rubarti una cassetta di mele, cazzo me lo spare, quello no, quello è lucidante, noi si parla solo di reagire, spararlo se dentro o volentieri nella tua proprietà, nella tua casa, non è che lo spare che se sta fuggendo ti sta avvolato magari una zappa, quello no, ma se sei sano. E infatti, se tu entri in casa mia, io devo essere sicuro che tu devi uscire in posizione orizzontale. Devo essere sicuro. Non che tu vieni a ammazzare a me in casa mia e a derubarmi. Infatti, perché poi non sai cosa succede, perché cazzo, una volta lui entra nel capito, cioè è normale che tu devi reagire per ammazzarlo. Perché il discorso è uno solo. E la ragazza sta ammazzando, non c'è la pietà via. Infatti, e noi isso, e che trovi a me, già lo sbaglio domani. Perché io faccio tiro dinamico operativo, cioè quello che insegnano le forze dell'ordine. cazzo, manco se lo voglio sbagliare lo sbaglio. Tu, ma se capita di mettere la palettone, non è che ti sbagli. Mi sa che la stessa va dal comodo. Ho la pistola, lo sparo, cosa cazzo, ma giù di passo c'è un ghiaccio così a pompa che va, giù cazzo, se lo sparo con quello, guai. Sì, va bene, però ti puoi sparare a te. Tu non resti un pistola come vuoi. Però è così, hanno paura che si trattano di imbecilli che ci governano a fare una legge. E poi anche, non ti fai queste leggi sempre così, c'è anche una reazione a discapito dei liberali. Ma dice, cazzo, e non dei cazzo, però che ti ammazzano. Invece, ma tu hai questi esempi così, dici, cazzo, non che le stava di tutte macchie, le stava ci difendono. Cazzo, quello che ha chiesto di risarcimento, 300.000 euro. Mamma, non esiste, cazzo, dice, è quello che quel codone dice, aveva fatto una sentenza, allora era entrato due rumeni di notte, saltando questa facciolata, il loro pastore tedesco l'aveva chiamato, e questi l'aveva, non so quanti giorni in cui era stato ombrato, si era salvato. Si ha condannato il proprietario a pagare i danni. Si è poi assaltato 3 metri di cinzione, e ha trovato un cazzo di danesi da scasso, il cane secondo il giudice doveva essere legato, cazzo via, non più casa mia. Il cane di io, cazzo il tuo cazzo legato. Cazzo. In continente siamo di buoni un paio di bici, beh, la calle senza magna pure, in modo che si rimagna nei brutti. Mi ha perso qualcosa? La Juve sta per 1-0. La Juve non va a versare, cioè, la Juve lascia la roba. Oramai quest'anno ci prendiamo tutto. Speriamo, fai un play, speriamo. Capito come è nata lì? Questo giudice, perché sono giudici, sono il peggio, capito? Il 90% di questi giudici sono messi sulla sede elettrica. Sono persone che poi sono contro le forze dell'ordine. Le forze dell'ordine arrestano i ladri, rubacatore, qualsiasi poliziotto. Su 10, 8 erano già arrestati. Capito? Loro li arrestano e il giudice mette fuori. Capito? Umiliando lavoro le forze dell'ordine, questa è la realtà. Sì, immigrati, dici, noi veniamo in Italia perché in Italia non ci fanno niente. Cazzo, più c'hanno di così voi. Allora, nelle intercettazioni che fanno, quei due rumeni, no, vieni qua, c'è un problema, cazzo, invece l'abbiamo sentito, no, non ci vedi, stai, non ti muovi al muro. Cazzo, via, ci sono persone che parlano alla rivelletta. Avanti, qua. È una bella vergogna, io continuo tutti i giorni, perché ho detto, a vedere questi, via Padovetta. Voglio vedere cosa il 1 giugno quando apre l'acqua fantasy, come ti si comporta lì. Siamo proprio attaccati, capito? Siamo attaccati al cancello dell'acqua fantasy. Voglio proprio vedere cosa succede, guarda. Sono curioso, non vedo l'ora. Oh, qua, stai dicendo a Natalina. Qua, da fammi un giro di amici, no, invece una cosa, Piazza Roma, lei tutte quelle cagate che hanno fatto lì. E sono entrato nella piazza dove c'era il delfino, là, di fronte al Trucca. Quindi vedono tutti quanti nei Pugioli, no, c'erano i sassari di fronte, c'era il Pugioli nell'albergo. Erano tutti belli, seduti, sassari nei Pugioli, guardavano sul mare, capito? Capito. C'è chi non ha neanche quella possibilità di vedere il mare, no? Come Natalino che è a piano terra. Io adesso che sono al secondo piano, prima dal nono vedevo tutto. Capito? Ed invece a faccia al mare, i servizi reveriti, beh, deboliti, ma anche questi mi. Tu già giri, se vai alla tua fantasia lì alla Marinetta. Fronte proprio c'è un villaggio, villette a schiera, ma belle, tutte con giardino, bellissime, capito? Fronte legge, di Ballamonda, capito? E ci sono commercianti che chiudono solo una settimana a Ferragosto, no? Solo perché non possono far me. E dici, tranquillamente, è Marco, lo Stato italiano, questi ladri. Non è colpa di chi, hai detto bene, lo Stato italiano. Io non ne avrei preso niente. Se vai a Cagliari, io sono stato da poco a Cagliari, tu devi vedere cosa c'è, a Cagliari di questa gente. Tutti in mezzo guerriero, baci gente, destra, sinistra, guarda, anche lì all'uscita di Cagliari vanno. Se no cosa c'è lì al centro commerciale? Tutto pieno di negri, una cosa impressionante. Tu non riesci a comprendere dove vogliamo arrivare, che lo Stato italiano non c'ha soldi, aggiù mai può pagare i missioni, per carità di Dio, vai Natalino. E aspetta, sto parlando a 50, no? Ma tu pensa che lo Stato italiano ha già messo 1 miliardo in più rispetto all'anno scorso, cioè arriva a 4 miliardi e 600 milioni per questi clandestini, allucinate, no? E poi tu dici, noi abbiamo messo 1,5 miliardi per la povertà. E poi tu gli richiedo dei soldi, no? Mi fare 1000 domande, se c'è una casa non fare danno, tutti i sicili sono andati in casa, no? Me la serve 80 euro, cazzo, me la tutti a quelli che guadagnavano di meno di 8.000 euro all'anno, cazzo, se guadagni meno gli sei degli studi, cazzo, da, lascia, io, se tu guadagni meno, cazzo, fatto a posto, invece appena messo i piedi nel territorio italiano, in Sardegna, immediatamente, in poche ore, abbiamo trovato un pezzo, incredibile, se avessero fatto questa velocità con gli italiani, non ci sarebbe stato un italiano, cazzo, senza un pezzo, uno, e... ma vabbè, la colpa delle leggi, capito? C'è la legge che dice che ogni nazione deve ospitare tanti migranti, quindi l'Italia è già fuori budget perché è quella che ne ha ospitato più di tutti e ne sta ancora ospitando, perché l'ultima imbarcata lì che c'è stata a Lampedusa mi sembra che erano altre 500, quindi è una cosa allucinante, continuano ad arrivare, non fai in tempo a sistemarli che continuano ad arrivare. Il problema è che non abbiamo più posti, capito? I centri di accoglienza sono tutti pieni, quindi dove li metti? Vabbè, se una cosa sono arrivati 8.000 in 3 giorni, cioè in 3 giorni 8.000 già, 8.000, che ti fate un paese grande a metà di sotto, cazzo, in 3 giorni, cazzo, incredibile, questa è la realtà. E poi adesso queste inchieste che stanno facendo queste navi, che vanno in Libia a pigliarli, cioè che ti traffico i soldi, impressionante, e soprattutto non c'è più un'azione, perché l'Italia, dove è andata questa stessa di me, non c'è più un'azione, un'azione che non reagisce, e deve prendersi tutte queste cose organizzate dagli scafisti, dai trafficanti, e tu stato, non c'hai non so come definirti. Non so, però cosa fai? Protesti. Non hai visto cosa ha fatto la Germania, ha detto fuori dalle palle, noi non vogliamo nessuno, e nessuno gli ha fatto niente. Invece in Italia sembra che comandano gli altri, non che comandiamo noi. Infatti, adesso quei politicanti, sinistra, bla bla bla, mi sentite, continuo a fare un grazie un voto a tutto quello che c'è in Europa, e c'è in Europa, e le congole sono troppo piccole, c'è in Europa, e le arance sono troppo tonde, c'è in Europa, e quelle così, cioè non esiste, cioè siamo sudditi di questa gente, della Germania, ma non esiste, non c'è più quello di italiano, andiamo ad abbracciare, noi facciamo quello che stiamo noi fare. Io Fabri, così è, sto dicendo, il giorno prima di Pasqua, proprio lì a Padoletta c'era il camion della Marre, scaricando agnelli e porcetti a tutto andare, hai compreso? E c'è gente che non ha potuto manco comprarsi un pezzo di salsiccioni, non solo di ragnone a Pasqua, è una cosa vergognosa, avanti Massimiliano. Ruggero, buonasera a tutti. Ciao Massimiliano, buonasera. È così, caro Fabrizio, è così. Io quando vedo questa cosa, ma tutti i santi giorni, camioncini che vanno e tornano pieni di roba da mangiare, capito? Ma no, roba riciclata, roba ai supermercati, ho visto il camioncino della nonna Isa. divisa aveva quella della smeraldina, perché poi fa una fiacca la smeraldina, mi hai compreso, e tu non te l'avevi permettito la smeraldina, non ero lì pure, di sì, acqua smeraldina, poi il cambio della maschera, ricambio carne a tutto andare, perché lì ci sono le cucine, c'è tutto. Guarda, una cosa da vedere veramente schifosa, il cliente muovendo il rame, e lì che serviti e reperiti, beh, se andando a cagare l'uomo dell'altro. Vabbè, avanti Natalino. Natalino stava parlando con la moglie, ripeti Massimo. Casino, ok, là è la tua scorsa, non è un casino. E basta qui, siete tutti in vola, e se no ti muovi il lo sgabuzzino. Io tutto, a te, abbassa le voci, Daniele, abbassa le voci. Sacra, vieni, portami via. Aio, mi, ci metto 5 minuti a scendere, ma ci vedi attuata, io farò, io. Tu ti sei bloccato a Duda, io mi sono bloccato a Daniela. A Duda? Sì, cosa buttarla? Limica, sta zitto che c'è per me a Duda. E a te? C'è già zitto. Sta zitto che c'è per me a Duda, e tu a mamma. E allora, guarda che non è una cattiveria, mi minori. E allora, facciamo un cambio. Però ascolta a me, ma lo sai che Daniela è in radio, non lo bufferì, quindi... Beh, lo sapete, sono la Ianna io, no, non c'è problema, non è che vi raggio il chilo in mezzo alle birre come ti fai tu, no? Vedi, io qua chiudo la porta, nessuno vede niente, non è un problema di radio, sono altri problemi. Sangue di bumbi, un po' di sangue. Ehi, vabbè, ma vi ho due o tre chili di salsiccia in frigorifero. Oh, via! E tutto è brava, lo accetta, se non lo fai ordinare tutti sono bravi, Gaia, eh. Ah, via, vai bocca viva. E beh, vedi tu, non fa bene. E non fa bene, e mamma c'è una sola. Brava Gaia, brava. Capito, senti a Massimiliano, sì. Ehi, ya, facciamo l'opera del 5 sette, ciao Massimiliano, mi ha ascoltato, avanti. Ehi, ya, ciao Fabri, buonasera anche a te, buon ascoltato. Ehi, ya, sai che ascolta, Natalino, sei rientrato? Cosa Fabri? Ma no, sto chiamando Natalino, sei rientrato, Natalino? Ma stai che mi metto le cuffie, perché io non sento niente, è proprio un casino. Ah, come si vuole a tutti, abbassate le voci. Che Massimiliano deve parlare, parla con Mulo. Oh, mamma mia, oh, ascoltami. E ascolti, sei lì, tu sei tutta a vista. Un casino, avevo lo stesso problema quando ero in Via Pascoli. Capito? Anche se ero nella stanza dell'aria, però la porta era sempre aperta, gente di adulto. Invece qua, chiude, no, mi butta il telefono, vengo la migliore. Ricerca di Montecitoni, vedete, sempre a Bodri, quando delle fuori a cazzo del tempo, da quando c'è un po' parcheggenti. Ma la situazione già me la troverò meglio, va. Capito. Vabbè, cosa vuoi fare? Contrariamente, ci accontentiamo qua. Sì, cambiamo casa, va niente, va bene quello, non ti preoccupare. Purtroppo è così, quando c'è tutto a giorno, come voi, è un casino. La radio veramente. E allora, Massimiliano quanto ma c'è quella grande e poi ne può mettere un'altra piccola, se ve ne è noca allora, a Sassuccia. Oh, ma infatti sicuramente ancora lì non ha visto niente, però. Ma vabbè, con la vabbè, comunque mi allungherò un capo, ma la metterò dall'altra parte. Ah dai, lì qualche angolino più riservato già c'è. Mi ricordo, ma lì no, nel poggio l'avevi chiuso poi, non avevi più sfruttato niente. Allora il periodo estivo si sta bene lì. No, qua il problema è quello, nell'inverno c'è freddo e l'estate è con i gatti. Se no mi avrei fatto un angolino là, lo facevamo prima. Sì, ma si vedeva l'inverno, vuol dire sciacchi, ne rende a 30, pazienza, l'estate già è bello il caldo. Io non lo so più, si vede fresco qua all'estate. Io apro la finestra, mi attacco il ventilatore, via, cosa faccio? Purtroppo è così, il posto è quello. Peccato giù che è piccolino, quello sgabuzzino che c'è giù, quello se fosse stato sarebbe uscita una bella cosetta lì, tranquillo, dipendente. Sì, vabbè, però qua poi riesci a andare sempre giù per fare quella chiacchierata, capito? È un casino, ma comunque va anche per gente, sennò già è tranquillo qua, sicuro di nulla. Ripeti, Fabio. Va là, va là, mi sa che devo andare a mangiare, là, caffè, devo fare di pranzo. Ci sentiamo, ciao Massimiliano, ciao Claudio e ciao anche a Natalino. Cazzo del bello, buona serata, alle prossime, avanti qua. Ciao Fabri, fatti sentire spesso, vai, che sei un po' assente. Ci sentiamo, buon fine serata, buon tutto, alle prossime, vai Massimiliano. Ehi, ciao Fabri, buona serata e buon divertimento, va, buon continuo di giornata, ciao. Ehi, ciao ciao. Sei andato a luogo, Gabo Bugne, siete usciti? No, no, niente, zero, tutta di e sabato. Io l'ho lavorato stamattina, se non ce l'avevo uscito, faccio il giro. Mi sto così a prenderci una cosetta, sono entrato a mezzogiorno e mezzo. Poi ho pranzato, Massimiliano ha giocato, che avevo dormito, alle 5 mi sono fatto, stanco morto. Stanco morto, guarda, non ci voleva neanche questa giornata. Un traffico nella mia zona, mamma mia, gli hanno fatto una chiamata, ma non viene a fede di San Marco, fettile, ma tenati. E andate in aria, tu figurati che sono tornato indietro e sono andato a Porto Torres a farsi un giro. A chi non veda un lungo manca pure la macchina. Ma tu pensava che oggi a Fertina c'è la festa di San Marco? Certo che sì, per quello te lo sto dicendo. È pieno, ma il tuo papà pieno, l'aria pieno. C'è ma della mamma, ce l'ha, noi ce ne chiamiamo la Porto Torres perché qua non si può camminare né in macchina né a piedi. Non c'è un buco a mettere la macchina. Anni là che se ne sono andati a Porto Torres. Ma anche a Porto Torres ci deve essere casino perché c'è la rotta di giamma su quant'altro. È Eugenio c'è che canta, Eugenio Finati. Ah, Finati, sì, vabbè, ma è a dove? A Barai, mi pare, a Barai, quindi dentro Porto Torres magari si può anche camminare. Poi chiaro, sicuramente il lungomare sarà chiuso dalla parte dello scoglilungo a salire, lì, la festa è lì a Barai, fa anche bene. Capito? Danni drammi sanno che stanno 11. Mamma mia, e lui ce l'ha lì vicino proprio, casino. Lì sotto a lui nel coso lo fanno, lì. Capito? Mendez, cos'è? Marco Mendez, lui. Lì lo fanno sempre. E domani anche lavorativa. Oggi ieri siamo sentiti alla Cagliari, figurati. Mamma mia, Marco, mi non mi ha già chilometri. Lo so, mi ha chiamato per lasciare la taglia, sì. E anche lui già lo faccio. Cosa devi fare? No, ma a me mi muoveva tutto, però se mi disturbi il sonno, guarda, in questi giorni, c'era tre giorni qua in Piazza Aldo Moro, qua a Termonazzi, cosa dove aveva organizzato la chiesa. Questa zia mi da quest'ora fino a mezzanotte meno 5, a mezzanotte meno 5 finita la musica. Sì, perché a mezzanotte devo sganciare per forza, capito? E così centro abitato sì, ma lì dove sono lì a quel parco lì non penso che sgancino, forse abbasseranno ma non sganciano. Cosa va del giro finale? Si viene anche terminato per comunità. Ma da rinnovi inizia a mezzanotte ma così, no, io credo che vabbè lì proprio medio orario loro hanno, quasi credo che a quest'ora credo che inizi, ma loro per mezzanotte già prima la bontà, Sì, ma infatti, pure già anche un anziano, quindi magari arriverà fin fatto come anche Albano. Ma chi mi fai ricco come Massimiliano? Ma che infatti io la Roccamana torco da mai. E una breta non la gatta nessuno, cioè dov'è Finati? Boh, è uscito a fare la pipì, non è tornato più. Aspetta un secondo, calma, un attimo solo. Ehi. Natali, la pappando stai, Natali. Uia. E beh, sta telefonando quella nuora che si deve in cuglio va, mamma mia. E chi? Il figlio di Concetto. Ah, si in cuglio va, già sono così vetti. Vai, cuoco, vale, va. Vai tu, Luca Puggioni, Claudio, digli il numero di telefono. Luca Puggioni, 26, 10, 26, com'era? 26, 18, 26. 26, 18, 26, ti faccio scrivere il telefono. Buongiorno, devo andare in campagna di... Marrizia che stava vendendo, era dietro una curva, una casa campaniera che c'è, che trovavo la villa di macchine, non mi sono avuto prima, se non me l'avrei presa una cassetta di favette fresche. C'è già un po' della mia ragazza, ne ha, diciamo che divisione ha fatto, mi ha piantato tre file da 300 metri, no aspetta, tre file da 100 metri l'una. Non avevi già così mi fatte fresche, proprio messe nella cassetta e portate a casa. E a me volte vedoci. Pane, sale e via. No, a me quello della frutta e verdura non piacciono perché li appese da poco, Anna. E praticamente erano lì più bugi. Perché le mettono lì, le lasciano al sole, capito, non va bene. Magari ce li hanno due o tre giorni, no? Invece devi fare belle fresche dalla pianta. E tutti i buoni di buona mania. Allora non fai buba. No, no, no, le vate dalla pianta e mangiate alla fine del mondo. Ah, le ha cucinate, le ha fatte in verde e poi le ha messe nel barattolo con lo sott'olio e come si chiama? Fiori di no, semi di garofano si chiama. Sì, sono buonissime così. Sì, anche Anna le fa in verde, quelle fresche, quelle secche le verde le bisare. Quelle fresche le fa in verde, le prezzemo, non le dice. Poi mi piacciono crude, fresche. A te piace il Natalì a te? A te piace la fama Natalì? Sì, che mi piace. Ma come ti piace, fresca o tardia? Fresca. Sì, fresca, buona fava. Adesso me le compro cazzo e me le cucino in verde. Buongiorno, buono. Con frutta e verdura oppure, ma c'è gente sempre lì con se trita che le prende. La fede viene da uno a pesce, all'ingresso del mercato c'era le favette, finocchietti, asparagi, capito? Gente che non ha lavoro, va a fare queste cose. Se vedi che c'è un malizia me li compareggio, me li compro, fermo la macchina lì al rifornitore e ando a piedi. Io lo conosco a Vincenzo, quello che le vende lì, mi devo l'ubino c'è duburu mi buco pagando, mi devo fare le minestre. Oh là, stanno facendo le ciliegie anche, penso per il prossimo mese, fai maggio, metà, fine maggio, dai, saranno pronte. Poi c'è queste nespole che sembrano cacchi, nessun mia nespola. No, frutta già ne ha, carciofi tagliati e mangiati, tu lo sai che goduria. Sì, a me lo dico, sono lì a Valedoria io, Santa Maria Covinas, ne ho mangiato anche troppi quest'anno, troppi. Ah, tagliati, tocca là, no, mi messo in macchina, arrivi a ripianto, bruciato, mangiato, così, mi tata, no, alla fine del mondo, dolci, lì a Santa Maria Covinas, Valedoria, capito? Perciò che ne ho fatto la digestione, infatti anche Anna Sottoli, ho tutti i mariti. Però le favette ne ho mangiato poco in quest'anno, le ho assaggiate. Sì, le ciliegie vado a Bonnannaro. E vado lì, a Bonnannaro, anche l'anno scorso, le ho prese. Per fare le ciliegie, le robe di mescola, ce ne sono un bel di alberi dove lavoro io, vicino a Trinità. Non poi c'è la campagna confinante con l'impianto e allora, lo dico, ma le faccio preparare. Però a me, anche che le nespole tu, mi piacciono quelle, le sugine, quelle gialle, dici appuntami, dici a Gagarola, ma ti chiama, cazzo, le buone che sono. No, ma ti posso dire che quest'anno aranci buoni ne ho mangiato, ma aranci piccoli, ma caramelle, mandarini lo stesso. Poi lì vabbè, fichi, freschi, buoni, le ciliegie sono piccole ma buonissime, buone. Poi limoni, guarda, se vuoi questi limoni che ha ti spaventi, lucidi, cioè tu li prendi dall'albero, belli, profumati, ma proprio guarda, se li cura gli alberi, anche se non sta bene di salute, poi il resto che ha piantato cetrioli, zucchine, poi ha piantato e girasoli. Mia moglie ha detto che va a rubargli le ciliegie a Lucca. Ah, vero, vieni. E aspetta che ti risponde bene a te. Aspetta, diglielo. Lucca, guarda, io vengo a rubarle, poi sono cavoli tui. Sai cosa è? Che, guarda, sono piccole queste ciliegie, ma buonissime, dolci. E infatti, allora, ne ha tre alberi, uno grandissimo, con gli altri un po' più piccoli, una parte se li devorano, l'altra parte se li vendono, se li vende 5 euro il chilo, ma mangi una ciliegia però, Ma se non mi piace a me, lui, ci duroni, che ci manni. No, queste sono piccole, non sono rosse, colorata, cioè tipo bianca rossiccia, quelle sono qua, se tu le mangi, rimani a... sono buonissime, è che purtroppo non so se me ne dà te le do un po' e le assaggi. Lucca, praticamente di gacchi di campagna. Ah, mia gacco, ma le dici. sì, mi ricordo, ma tu c'avevi un bollardo di cacchi giù nella vallata. Grandi, mi ricordo. Sì, no, ma quelle piccoline sono buone lo stesso, Mindù. Sono buone, capito? Perché sono dolci, adesso quelle sono le prime. A voi sono questi duroni, siamo arena. Mamma mia, sono buonissime. Ma già te le prendo. Io di solito c'ho un amico di Bonanna, un amico, un collega di Bonanna. Gliele chiedo, me le porta, capito? E sono i dolci mi. La Mareni sono buoni. Oh ragazzi, sentiamo dopo, va. Intanto qua c'è Marcello, sta iniziando a fare qualcosa e quindi lo fa. Dai, ci aggiorniamo, buona serata e buona continuazione. Ciao Massimi, io non ti ho rilanciato, ma tu stavi facendo qualcosa, e intanto anch'io qui ci sono le 9 meno un quarto. Andiamo a mettere qualcosa sotto i denti. Beh, ci sentiamo signori, anch'io chiudo. Ciao Massimiliano, ciao Lucca, ciao Natalino, chiunque fosse in ascolto. Buon fine serata a tutti e buon proseguo settimana per domani. Ciao! Ciao Cla, buonanotte, saluta Manna, buona cena, sono fatta Drommi, a domani, alla prossima, ciao! Ciao Lucarie, quando vuoi salire già lo sai, non c'è problema, ciao! Ciao Clara, prossime. Ciao Claudio. Anch'io chiudo, va. Ciao a tutti, anche a quelli che sono in ascolto, va. Vorrei per me. Ciao ragazzi, ciao Massimiliano, che l'ho sentito prima. Ciao gli ascoltoni, ciao Natalino e ciao Concetta, buonanotte, ciao. Ciao a tutti, ciao Concetta, prossime, ciao Natalino, ciao.